della galleria, anzi io sono stato introdotto in galleria da Pietro Bonfiglione, che era una sorta di consulente culturale, di saggio a cui ci si rivolgeva per dirimere alcune questioni di carattere teorico, eccetera, eccetera. Ed egli ha svolto una funzione molto importante nella galleria, ecco, grazie anche al fatto che c'era un accordo molto ampio e molto coerente fra lui e Franco Bartoli e Pasquale Ribuffo. Io naturalmente vi ho invitato per via della mostra che c'è al Mambo in questo momento, che ha inaugurato 2 o 3 settimane fa, poco prima di Natale, che appunto celebra i quanti anni sono? Tantissimi. Sono quasi 60 anni. Quasi 60 anni della galleria, ed è anche un omaggio a mio padre, certo, che è scomparso l'anno scorso. Certo, naturalmente. Non è una mostra che ripercorre tutti i 60 anni attraverso le opere, perché era impossibile. Quindi l'abbiamo ripercorso attraverso immagini, fotografie e pubblicazioni, e attraverso una pubblicazione che è uscita insieme alla mostra, che raccoglie i 65 numeri del notiziario che era appunto curato da Pietro Bonfiglioli, al quale si aggiunge un nuovo notiziario che è il 66. Il 66esimo. Che è stato scritto da Vittorio. E cosa c'è sul 66esimo notiziario? Nel 66esimo notiziario c'è una sorta di recensione dell'ultima Biennale di Venezia. Cioè io ho visitato l'ultima Biennale di Venezia e mi è parso di capire che molte delle cose che si sono dette nel notiziario, che poi dirò in che cosa consistono, molte delle cose che si sono dette fra gli anni 65 e 89 ecco, sono confermate nella loro a lucida analisi, sono confermate dalla mostra che si è tenuta quest'anno, e quindi ho ritenuto di fare quello che avrebbe fatto Pietro, il curatore del notiziario, Pietro Bonfiglioli, che ha curato per tutti i quasi 25 anni il notiziario. Sicuramente ne avrebbe dedicato uno a questa mostra, e l'ho fatto io, mi sono permesso di farlo io al posto suo. Il notiziario ogni quanto usciva? No, i notiziari erano un'appendice dei cataloghi della galleria. Ogni volta che c'era una mostra, ogni mostra un notiziario. Ogni mostra c'era un notiziario. Certo. Questo notiziario è nato come un vero notiziario, cioè informazioni sulle mostre che si tenevano in Italia, che avevano interesse. Ecco, secondo l'ottica della galleria potevano avere un interesse. Ma siccome Pietro a queste mostre che recensiva, le recensiva in modo da far emergere dei problemi teorici generali sull'arte, allora a un certo punto questo notiziario è diventato in realtà un dibattito teorico sull'arte contemporanea, che ha coinvolto critici e storici dell'arte e anche artisti di primaria importanza, Guttuso per dirne uno, e poi c'erano i critici d'arte e gli storici che possiamo dire i più militanti, cioè coloro che più si appassionavano ai problemi dell'arte, che scrivevano su varie riviste e vari giornali d'Italia. Ecco, questo è stato un dibattito che si è protratto sui problemi teorici dell'arte per quasi 25 anni. Ecco quello che la galleria ha voluto raccogliere, considerandole una parte rilevante della propria attività, perché così come la galleria si è distinta perché è sempre stata attenta ai fenomeni d'avanguardia, cioè ai fatti emergenti come novità nell'orizzonte delle arti figurative, così ha tenuto in grande considerazione il dibattito che si svolgeva a quei tempi, perché le avanguardie artistiche sostenevano che la critica d'arte e l'arte vanno insieme, e che quindi il discorso teorico sull'arte fa parte del fare arte da parte delle avanguardie. Ecco perché questo dibattito svoltosi sul notiziario è molto importante, e la galleria ha fatto bene a volerlo raccogliere in un volume. Ok, e poi cosa è successo nel 1989? Nel 1989 il notiziario ha cessato le pubblicazioni. Perché ha cessato le pubblicazioni? Dunque, la critica d'arte nel notiziario veniva rovesciata in critica dell'arte. Questo fin dall'inizio, da quando si è cominciato a discutere teoricamente dell'arte, si è detto in realtà non si dovrebbe fare la critica d'arte, che vuol dire criticare un'opera, una serie di opere, un artista, ma si dovrebbe criticare l'arte in quanto tale. Questa tesi è stata molto dibattuta, anzi possiamo dire che la parte fondamentale del notiziario è stato un dibattito su questa questione, critica dell'arte e come la si può condurre. A un certo punto però c'è stato un fenomeno nella cultura italiana, come nella cultura mondiale, un fenomeno di reazione. Cioè è stata una sorta di restaurazione dei valori dell'arte, mentre l'avanguardia aveva sconvolto un po' gli assetti tradizionali dell'arte, c'è stata una ricomposizione, l'arte è tornata ad essere l'arte che è fatta con la vocazione, la creatività, il genio individuale, eccetera, tutto ciò che si diceva dell'arte. E quindi è tornata a prendere il sopravvento la critica d'arte. Sì. E cioè il dibattito non ha più avuto quell'interesse per cui tutti ci cercavano per poter dire la loro a proposito dei problemi dell'arte così come noi li trattavamo. Cioè era finita un'epoca. Certo. Ecco perché Francesco ha detto il notiziario finisce l'anno stesso in cui cade il muro di Berlino. Certo. Ecco, l'anno stesso in cui finisce un mondo. Esatto. Quel mondo che noi abbiamo conosciuto, che era un mondo diviso in due e che è tornato ad essere uno solo. Ecco, e in quell'epoca è stata un'epoca in cui l'interesse teorico per questo discorso sull'arte e sulla sua essenza veniva a cadere. Do un esempio che chiarisce tutto. Quando noi dicevamo non si deve fare la critica d'arte ma la critica dell'arte, subito dopo aggiungevamo: ma come si può fare la critica dell'arte? Siccome le avanguardie avevano mostrato che l'arte non era più se stessa perché era diventata merce, allora la critica d'arte sarà un qualche cosa che somiglia alla critica dell'economia politica, perché se l'arte è merce la si critica come si critica la merce, certo, con l'economia politica. Ovviamente questo discorso dopo la caduta del muro di Berlino era un discorso che nessuno voleva più affrontare. Ecco come mai noi ci siamo trovati Pietro Bonfiglioli ed io, dice: beh, come proseguiamo questo dibattito? Abbiamo perduto noi coloro che potevano discutere e contestare questa cosa. Ecco, quindi questo è il motivo per cui il notiziario, perché è cambiato un'epoca. Certo. Ecco, e dunque questo potrebbe essere il momento giusto per ricominciare? Ecco, questa è stata un po' la nostra idea. Sì. Probabilmente questo lungo periodo in cui, che noi chiamiamo di restaurazione, certo, ecco, si sono restaurati i valori dell'arte, ecco, i valori dell'umanesimo, i valori della creatività, eccetera, eccetera. Forse oggi è il momento di ripensare questa cosa, e ciò che è stato detto nel notiziario può essere un buon punto di partenza per ridiscutere questa idee dominanti d'oggi, che sono idee restaurative. Ho capito. E invece io oggi ho ricevuto una canzone da una mia ex studentessa cinese, che però abita, è mezza cinese, mezza giapponese, e lei invece fa tutt'altro, e adesso ve la faccio sentire, così voliamo da tutt'altra parte. si chiamano Sweet Core e il pezzo si chiama Takarashima. Fantastico. E dunque, era, com'era l'età della tecnica? Sì, questo dibattito si conclude nell'89 con una riflessione sull'arte nell'età della tecnica. Quindi si è passati da Marx a Nietzsche ad Heidegger nel frattempo. Sì, si è constatato che quell'ultima figura del mondo che Marx chiama il capitale totale o il capitale divenuto un feticcio automatico, è in realtà l'età della tecnica, cioè la realtà di una condizione sociale in cui la tecnica domina il mondo. Quindi si può mettere insieme Marx e Heidegger, ecco, e parlare dell'età della tecnica come l'ultima figura della società moderna. Per moderna si intende appunto una società che è dominata da che cosa? Da non più direttamente dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ma dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo controllato dalle macchine. Gli algoritmi, ecco, cosa diciamo noi oggi? Diciamo che un lavoratore ha i tempi che sono determinati da un algoritmo. E questo che cos'è? Questo è il dominio della tecnica. Cioè vuol dire che esistono degli apparati tecnici che calcolano e dicono: tu per portare una pizza ci devi mettere 5 minuti e 30 secondi. Punto e basta, non puoi metterci di più perché l'algoritmo dice così. Se no vieni licenziato. Ecco. In questa età della tecnica ci sono dei risvolti che riguardano l'arte. Ecco. E noi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che i risvolti che riguardano l'arte sono costituiti dal fatto che nell'età della tecnica, ricordiamo che l'età della tecnica la possiamo fare così, certo che l'età della tecnica comincia all'età della pietra, evidente, questo, certo. Ecco, come direbbe Umberto Eco, no? L'età della tecnica, così come la intendiamo noi, inizia con il primo esperimento atomico, o meglio, inizia con Hiroshima. Ecco, lì è l'età della tecnica. E l'età della tecnica coincide anche con il pensiero della fine. Ora, noi il pensiero della fine lo abbiamo ben presente. Perché? Perché se il presidente Trump, ecco, un giorno in cui è particolarmente mal disposto, decide di tirare un'atomica sull'Iraq, sull'Iran, probabilmente si scatena la fine del mondo. Ma la tecnica è più infida ancora, perché anche se non ci sono pazzi che scatenano il conflitto atomico, c'è la fine del mondo per le ragioni che il mondo viene consumato, distrutto poco a poco, i ghiacci si sciolgono, l'atmosfera è inquinata, i mari diventano delle isole di plastica, e quindi anche per questa via noi abbiamo il pensiero della fine. Ed è in quel momento che l'arte, ecco, sente come proprio elemento fondamentale, come che l'arte fosse l'ultimo monito rivolto al mondo, di essere essa stessa il pensiero della fine, cioè di considerare la propria esistenza nell'universo della tecnica come il pensiero della fine, cioè la coscienza, la consapevolezza del mondo. Ecco, l'arte diventa così la consapevolezza del mondo. Ed è in equilibrio fra il mondo e l'irrealtà. L'irrealtà è la fine del mondo, ma è un'irrealtà che può diventare reale. Ecco, questo è un po' il pensiero a cui siamo arrivati cercando di capire che cos'è l'arte in questa età dominata dalla tecnica. Mi hai lasciato senza parole, francamente. E, no, io come dicevo, mi piacerebbe che fosse l'età di ricominciare, cioè fosse il momento giusto per ricominciare. In un certo senso, no, sta quasi rinascendo una sorta di guerra fredda, anche se non c'è proprio più l'Unione Sovietica che la. Però diciamo che insomma la, no, tra USA e Cina il momento politico è un po' così, anche se la Cina devo dire che è un paese molto interessante. Molto. Ci sono stato due o tre volte. Ma scherziamo. Ma interessante per tante ragioni. Cioè, noi sosteniamo, e lo sosteniamo in queste pagine, che il capitalismo nella sua ultima fase è un capitalismo socializzato, cioè che tende a far partecipare le persone, ecco, ai processi produttivi, cerca di inglobarli, e quelli che non sono inglobabili vengono emarginati e cacciati. Ma l'aspirazione del capitalismo è di coinvolgere tutti. Ora viene in mente una cosa incredibile. La Cina che cos'è? È la forma del capitalismo comunista. Cioè è un capitalismo comunista, che è la più grande contraddizione in termini. Come può il capitalismo essere comunista? Lì si dà il caso che il capitalismo socializzato abbia la forma del capitalismo comunista. Una cosa incredibile, vero? Il capitalismo comunista. Quindi il massimo di socializzazione. Quindi questo è veramente, fa pensare questa cosa, ecco, fa molto pensare. E soprattutto, quando dico fa pensare, voglio dire questo: che cos'è che deve riprendere dopo la parentesi, diciamo, restaurativa che è seguita alla caduta del muro di Berlino? Si deve riprendere il pensiero, bisogna ricominciare a pensare. Noi per molti anni, ecco, non abbiamo pensato, cioè il pensiero, o meglio, non abbiamo pensato, non si può dire perché il pensiero c'è sempre, ma abbiamo dimenticato il pensiero critico. Ecco, abbiamo pensato, non abbiamo più pensato al fatto che quello che ci troviamo attorno va sottoposto a critica. E si cerca, e bisogna cercare di capire cosa c'è dietro o sotto quello che appare non è mai. Cioè, finisco così. Questo volume che abbiamo fatto è illustrato e finisce con tre immagini finali, che sono la fotografia della una delle prime edizioni del Manifesto di Marx, una foto di profilo di Nietzsche con i suoi baffoni, una foto piano americano di Sigmund Freud. Perché queste tre foto? Ma perché noi pensiamo che i grandi critici del moderno siano appunto questi tre personaggi. L'uno ha pensato, guarda, bisogna capire come è fatto il mondo, e quando io vedo una mela devo capire cosa c'è dietro. E capire che cosa vuol dire? Capire che dietro una mela c'è una merce, che la mela in realtà è una merce, non è un frutto, è una merce, perché sul mercato vale 100 lire e quella è la mela. Nietzsche dice: io dubito molto che tutto ciò che avviene sia perché lo fa Dio, anzi penso che Dio sia morto e gli uomini debbono arrangiarsi, anziché altro che raccomandarsi a Dio e dire che Dio è quello che fa tutto, adesso arrangiatevi, fate voi da soli. E l'altro è Freud, che scopre l'inconscio. Ecco, tu credi di essere tu che ragioni, che vuoi, che fai, eccetera eccetera, viceversa sei dominato dal tuo inconscio, che sono poi le pulsioni rimosse perché la società non ti lascia esprimerti come tu vorresti. Ecco, questi sono i grandi pensatori del moderno e sono quelli che ci hanno insegnato che le cose non sono mai come appaiono. Ecco, che bisogna sempre guardare dentro, guardare sotto, guardare attraverso. Qui, insomma, per dirla in modo popolare ma molto significativo, quando si vede una cosa si deve sempre pensare che lì gatta ci cova. Ecco, gatta ci cova. E anche qui, ahimè, gatta ci cova, perché è ora delle pubblicità delle 19:30. Esatto, bravo. Ai ai ai. puoi ricevere il meglio della settimana di Radio Città Fucino direttamente. Quando sera. Coxo spaziale. Ritorniamo in diretta, ma prima di tutto c'è questo. L'angolo della menzione. Ovvero venerdì 17, alle ore 18 Villa delle Rose inaugura la nuova mostra a Villa delle Rose, che è una personale di Antoni Muntadas, dal titolo Muntadas Interconnessioni. Questa cura di Cecilia Guida e di Lorenzo Balbi. Mentre invece la sera prima, giovedì, ad anticipare la mostra, giovedì 16 gennaio alle ore 21 all'Auditorium Dams Lab in piazzetta Pierpaolo Pasolini, c'è il talk con Antoni Muntadas a cura di Roberto Pinto, e intervengono i curatori, che sono sempre Cecilia Guida e Lorenzo Balbi. Francesco, cosa mi dici di Antoni Muntadas? Molto bene. Sì, andiamo a vederlo. Andiamo a vederlo. Sì, vedere senz'altro. Lui è un personaggio interessante. A proposito di queste cose di geopolitica, eccetera. Certo, perché la conseguenza nel modo più esplicito. Quando diciamo la critica d'arte deve diventare critica dell'arte, diciamo anche una cosa che poi le avanguardie avevano detto. Ecco, e cioè che quando un artista fa un'opera, fa arte come critica dell'arte. Ok. E Muntadas ci sembra che sia su questa strada. Che fa un'opera d'arte, o varie opere d'arte, o dei complessi d'arte, come critica dell'arte. Facendo in qualche modo critica. A me io pensavo che fosse implicito nel fare arte il fare critica, più che dell'arte, critica del mondo. No. Oggi la figura dominante dell'arte è il kitsch. La più gran parte dell'arte è kitsch, e tutto è diventato arte. Se lei guarda per strada le vetrine, la pubblicità, le macchine che passano, tutto è arte. Ma è arte nella sua forma del kitsch, cioè è arte popolare, è l'arte per tutti, è la gioia per tutti. I tubetti del dentifricio sono artistici, e così, e no, tutto, no, nulla. Le confezioni del riso, le confezioni dei generi alimentari, no, tutto è arte. Io ho questa idea. Ed è la forma, è quella del kitsch. Sono invece pochissimi coloro che fanno arte nella forma critica, ecco. Noi prima dicevamo che l'arte criticava il mondo, ma siccome l'arte è diventata il mondo, cioè il mondo è artistico, certo, ecco che l'arte deve criticare se stessa. Io ho questa idea di orizzontalità dell'arte in cui ognuno può diventare, cioè può fare arte per... Sì, questa è un'idea buona, perché risale a un signore che si chiamava Breton, fondatore del surrealismo. Ok. Il quale cosa diceva? L'arte deve essere fatta per tutti, da tutti. Sono d'accordissimo. Ecco, e lui pensava, ecco, ma per fare questo ci vuole un'altra società. Nella società in cui viviamo questo non è possibile. Per fare questo bisogna che ci sia una società, come si dice, liberata. Ecco, la società liberata. Non vorrei, dice, come tu pensi la società liberata sia il socialismo, ma non hai visto cosa è successo. Io non dico il socialismo, dico una società liberata nel senso che non vi siano più degli impedimenti alla libera espressione di quello che uno è o sente o fa. Ecco, in questo modo Breton diceva: l'arte è fatta da tutti per tutti, ma perché questo possa succedere ci deve essere una società che non ha i vincoli che ha la società in cui noi viviamo. Ecco, questo è il punto. mi rendo conto benissimo che coloro che volevano liberare la società e che hanno provato, qui hanno provato, diciamo, la rivoluzione d'ottobre, ecco, no? È finito nel gulag, quindi c'è proprio, si è rovesciato completamente. L'obiettivo era quello di liberare l'uomo dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, e viceversa lo si è imprigionato nel gulag del lavoro coatto. Mi rendo conto di questo. Questo però non significa che non si possa riprovare e fare meglio, ecco, no? Effettivamente, che è un metodo diciamo confuciano, no? Sbagli, ritenti, esatto, ritenta, esatto. Sarai più fortunato. Ma io in realtà volevo tornare al concreto. Esatto, no, stiamo facendo dei discorsi molto alti, però effettivamente volevo tornare dentro al mambo a rivedere con voi quello che è la storia della galleria, che appunto troviamo nella Project Room del Mambo fino a marzo. Come avete scelto come rappresentare sì. 60 anni di galleria? Non è stato facile, perché la storia della galleria è molto lunga e molto articolata, e sono stati esposti più di 300 artisti. Proprio per questo abbiamo pensato di raccontare questa storia attraverso un libro, attraverso delle immagini, e invece l'esposizione è limitata a un numero di artisti molto più ridotto, che sono poi, diciamo, quelli che sono stati i compagni di mio padre, certo, e le persone che ha avuto più vicino. Quindi la mostra non vuole essere una storia, ma l'ultima immagine, diciamo, della galleria. C'è un De Vita fantastico in quella mostra. Ah, perché l'ultima immagine che dice lui è poi un'immagine per punti alti. Ecco, quindi lì la mostra è una mostra molto limitata rispetto all'enorme quantità di cose fatte dalla galleria, ma presenta dei punti molto alti come qualità degli artisti e qualità delle opere di questi artisti. Tu dicevi del De Vita, ma c'è un altrettanto bellissimo Pozzati, per parlare dei bolognesi, e anche poi Pirro Curiberti. O Schifano, quadri che sono stati poi realizzati qui a Bologna in occasione della mostra, e lì abbiamo mostrato sia il make-off, diciamo, perché nella parte fotografica si vede Schifano che lavora con mio padre. E poi il quadro di Schifano è uno dei più belli. No, che ecco, sì, così come poi io sono l'opera di Parmigiani, è un'opera molto significativa, un'opera anche la sedia di Ceroli, adesso certo sarebbe stato bello, disponendo di uno spazio più grande, di poter mettere i cavalli, certo, la battaglia di San Romano, cioè lui ha fatto anche altre cose molto molto importanti e altissime come qualità, ma anche quella che è esposta è un'opera di alto livello, ecco. E così Zorio, ecco, no? Certo, sì. Quindi si è cercato di dare il carattere di una grande altissima qualità, ecco, rappresentando fra l'altro alcuni di questi pittori, di questi artisti, hanno seguito la galleria fin dall'inizio, perché Pozzati, De Vita, Curiberti e Ceroli, sono stati fra coloro che anche hanno... Zorio, stati fra coloro, e quindi sono la storia della galleria questi. Zorio quante mostre ha fatto con voi? Beh, adesso quante ne ha fatte non saprei. Prima però mi avevate... È una storia che è cominciata con lui che aveva 20 anni. Certo, anche Pozzati, immagino, no? Con Pozzati qua voi avete aperto nel 62, giusto? Sì. Nel 62, sì, Pozzati anche poi della mostra. Vorrei dire che è stata concepita come una sala del museo, e in un certo senso da lì si diramano. Il visitatore attento potrà vedere nelle foto tante opere che erano nelle mostre, che adesso sono nelle collezioni del museo. Certo, quindi in un certo senso è un punto di partenza anche per fare un giro delle collezioni del museo e scoprire quanto le relazioni che ci sono state tra la galleria, tra le varie gallerie bolognesi e le collezioni del museo, perché abbiamo tante cose. Beh, basti pensare all'arte povera. L'arte povera, che è stata una scoperta della galleria dei Foscherari, ecco, a pochi metri dalla mostra attuale c'è una sala del museo che è dedicata all'arte povera, e praticamente è la mostra che fece la Galleria dei Folcherari nel febbraio del 68. Ecco, è lì, a pochi metri la si può vedere. Ecco, questo è il punto, perché questa attività si è snodata in questi lunghi anni, quasi 60, quindi, no? Ha avuto questa espansione, e quindi la mostra del museo è come il nucleo, ecco, che si articola nel museo stesso, si può vedere. Ma dunque, come funzionava in quegli anni, negli anni 60? Cioè era la De Foscherari che andava in giro a scoprire talenti, o erano talenti che confluivano nella De Foscherari? La De Foscherari negli anni aveva questa capacità veramente straordinaria di intuire quelli che erano i fatti nuovi e importanti. Non i fatti nuovi e importanti. Destinati. Allora, che cosa succede? Succede che è una delle prime gallerie in Italia a fare la pop art americana. E fa una grande mostra di pop art americana, e la pop art poi è diventato il massimo delle espressioni dell'avanguardia pittorica in quegli anni. Certo. Ecco. E quindi poi l'arte povera, ecco, l'arte povera colta subito al volo, l'arte povera, cioè la capacità di capire quello che era l'elemento avanguardistico che si muoveva, cioè ciò che si muoveva in una direzione di rinnovamento nel campo delle arti figurative. Ecco, questo era il punto. Certo che andavano in giro a vedere le altre mostre, le cose, leggevano i giornali, le riviste, eccetera. Allora si andava in giro a vedere mostre molto, perché poi le mostre non erano così tante come oggi, certo. Quindi era più semplice seguirle. Ma soprattutto era la capacità intuitiva, ecco, di questi signori, ecco, che afferravano le cose, e allora e si faceva. La galleria era molto attiva. Lei deve pensare che quando io ho cominciato a frequentarla, la galleria faceva una mostra ogni 15 giorni. Wow. Sai cosa vuol dire? Ogni 15 giorni si doveva smontare la mostra che c'era, montarne un'altra e aver pronto un catalogo. Ogni 15 giorni, adesso è quasi impensabile, nessuna galleria oggi fa può fare una cosa. Negli anni 90 c'era il Graffio che ne faceva due ogni settimana, però niente catalogo, e comunque lo spazio era veramente ridotto. E invece gli spazi, la De Foscherari nasce come Galleria De Foscherari perché era in via De Foscherari, sì, io però non ero ancora nato, Lo so, quindi rispetto a questa sede non so nulla. Non sai nulla. Poi si è spostata in via Goidani, c'è, cioè, poi nel 2001 nella sede attuale, che è in via Castiglione 2B. Ok, sì. E prima dove era? In via Goidani, c'è, cioè, nel retro della Galleria Cavour. Era nel retro della Galleria Cavour. Ok, perfetto. Sì. Adesso infatti mi è venuto in mente. Ma è stata anche nella Galleria Cavour. Dentro alla Galleria Cavour. È stata anche nella Galleria Cavour, e purtroppo uno spazio bello ma poco ampio. E quindi poi si andò in via Goidanić. Ok. Dove lo spazio era più grande, la galleria non offriva quella visibilità che offriva la Galleria Cavour, certo. Però lo spazio era più grande ed è stata lì molti anni. E poi, adesso invece è riuscito ad avere lo spazio grande e la visibilità, perché è in via Castiglione, quasi alle due torri. No, volevo dire un'altra cosa. Sulla mostra che c'è attualmente al Mambo, e dove la galleria ha cercato di rappresentarsi, sia pure nella ristrettezza dello spazio, nel modo migliore, si è pensato di fare, assieme al direttore del Mambo, che è uomo di mente aperta e di occhio lungo, di accompagnare questa mostra con una rassegna cinematografica. Siccome la galleria, fra le altre cose, a partire dal 2013 mi pare, fa sempre delle rassegne cinematografiche, avendo capito che il cinema e le arti figurative vanno molto insieme, soprattutto per quanto riguarda le avanguardie cinematografiche, le avanguardie spesso si sono fuse, ecco, no? Si sono intersecate le une con le altre. Allora si è pensato di accompagnare quella mostra al Mambo con una rassegna cinematografica che riguarda l'avanguardia italiana. Un'avanguardia che alcuni negano addirittura che ci sia stata, ma che noi sosteniamo che c'è stata e la vogliamo far vedere. E abbiamo pensato a questa cosa che ci sembra interessante, di fare le proiezioni nella parte esterna, nel corridoio, nel largo corridoio che fiancheggia il luogo dove c'è la mostra. E in questa mostra noi vogliamo mettere film che andiamo a presentare, che spieghiamo al pubblico che cosa sono, come, perché, e poi seguitano per tutta la settimana a essere proiettati in loop nella galleria. Fantastico. Per cui chi va a vedere la mostra può anche vedere il film famoso il film di Franchina, Morire Gratis. Morire Gratis, che è una cosa dove il protagonista è Franco Angeli. Quindi un documento importante anche, ecco, no? E questo si vede per tutta la settimana. Chi viene alla presentazione, vabbè, sente la presentazione, eccetera, eccetera. Volevo aggiungere che queste proiezioni avvengono all'interno di un'opera di Eva Marisaldi. Ah, ok. Ed è un'opera che era stata pensata per la mostra al PAC come un piccolo cinema. Certo. Che oggi è stata acquisita dal Mambo e quindi noi sfruttiamo in questo caso come punto. Che fra l'altro Eva Marisaldi è anche una. Esatto, è anche nella mostra. È anche nella mostra. Artisti, appunto. In questo salto nel contemporaneo che avete fatto ultimamente, quando è che avete deciso di fare un salto generazionale con la scelta degli artisti? Direi con la mostra di Luca Vitone. Ok, non tanto tempo fa. Era una mostra che appunto univa l'avanguardia. 2012. Sì. Ah, 2012. Era una mostra di Gross. Mi sembrava ieri, però sì. Invece era 2012. Ok. E di Luca Vitone. Certo. E da lì abbiamo cominciato anche a fare le rassegne cinematografiche. Okay. Ed è una mostra che aveva un titolo che era Berlino 192.012, cioè unendo la data delle opere di 1922-2012. E quindi una mostra che immaginava un futuro, che si proiettava in un futuro lontanissimo. Perché? Perché ritorniamo al discorso con cui si chiude questo notiziario, perché interrogare l'arte significa interrogare il destino. E perché significa interrogare il destino? Perché se il destino dell'uomo è legato alle leggi dello sviluppo tecnico, e se è un destino, vuol dire che il destino è segnato dall'origine, e quindi noi interroghiamo l'origine della tecnica, e l'origine della tecnica è appunto l'arte. Siete troppo alti anche per me. No, coxo spaziale no, di solito. No, è semplice, è una cosa semplice. Una cosa semplicissima. No, dicevo che di solito il livello della mia trasmissione è un po' più terra-terra di così, ma io sono senza parole, sono meravigliato, anzi, della... Lei sa benissimo, per molto tempo noi abbiamo associato l'arte ai mestieri. Infatti si dice arte e mestiere. Certo. E l'arte come nasce? Nasce come un mestiere, sia pure un mestiere particolare, ma un mestiere. Infatti l'arte è fatta da un artigiano che ha una bottega con degli allievi e dei garzoni, ecco, i quali gli fanno i cieli, no? Gli fa dammi questo fondo rosa, eccetera, eccetera. E così nasce l'arte. E l'arte non è considerato un fatto intellettuale, ma un fatto manuale. Un artista è un artigiano. Bestia come un pittore, appunto. Ecco, è un artigiano. E al quale si può commissionare, sei bravo, fammi questo, fammi quello, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto la situazione si capovolge radicalmente, a partire, diciamo, dal Cinquecento, ecco, dal Rinascimento. A un certo punto l'artista dice: no, un momento, io sono uno che fa delle cose che so far solo io, cioè diventa cosciente del proprio stile. Questa cosa qui la so fare, fatta così la so far solo io. Tutti sanno fare una Madonna, ma come la faccio io, la faccio solo io. E questo è il mio marchio di fabbrica. Ecco, è il mio marchio di fabbrica. Se tu vuoi un quadro di Michelangelo, ecco, Michelangelo lo fa come gli pare a lui, perché lui è l'artista. Non te lo faccio come dici tu. Tu vuoi che ti faccia questa figura con questi santi? No, lo faccio. Dimmi tu che cosa vuoi, dove lo vuoi mettere, e lo faccio io. Cioè diventa consapevole del proprio intelletto, di essere un intellettuale, di non essere un lavoratore manuale, ma di essere un intellettuale. Un sacco di miei studenti invece vorrebbero tornare a fare gli artigiani, cioè proprio, non ho capito perché questa cosa, cioè c'è questo interesse nel voler tornare a eseguire gli ordini. Non è voler tornare a eseguire gli ordini, è voler tornare alla radice delle cose. Questi ragazzi sono molto infelici perché in realtà non possono esercitare il loro intelletto, non possono essere intellettuali, perché questo, quella loro scuola, i lavori che trovano, le cose che fanno, li costringono, in qualche modo li umiliano. Quindi loro saggiamente vogliono ritornare all'origine, e l'origine dell'arte è proprio l'artigianato. Ecco, che il fare una cosa e farla con abilità, fare abilmente una cosa, mettendoci anche della creatività, del modo, un modo nuovo di risolvere i problemi, piccoli problemi tecnici, eccetera, eccetera. Quindi i ragazzi hanno un'idea che bisogna ricominciare da capo, che bisogna ricominciare da capo. Ecco perché vogliono tornare alla manualità fabbrile degli artigiani. E dunque è ora di ricominciare i notiziari. Eh già. Bene, io direi che vi devo ringraziare tantissimo, perché ci avete dato un episodio altissimo di Coxo Spaziale, che forse Coxo Spaziale non merita. Ma e poi appunto il tempo, ahimè, finisce così, per cui ci dobbiamo salutare. Comunque grazie di averci dato questo spazio, ci ringraziamo molto. No, in realtà bisogna ricordare la mostra, che adesso stavo guardando nel mouse sbagliato, la mostra che naturalmente è al Mambo, Museo d'Arte Moderna, in via Don Giovanni Minzoni numero 14, che è su fino al primo marzo, che appunto racconta dei sabati, tre sabati del mese c'è, sì, il cinema fantastico, partendo da subito, partendo dal 15, il 22 e il 29 febbraio, perché nel frattempo in mezzo c'è questa piccola settimana di arte fiera con 280.000 infatti non so bene che cosa farò lunedì, perché non so bene chi invitare, che cosa, eccetera. Adesso vedremo. Grazie davvero, siete stati fantastici. Grazie a te. A Francesco Ribuffo e a Vittorio Boarini, che poi adesso entrambi io vi voglio di nuovo, perché noi verremo. Vittorio magari una volta ci farai una puntata felliniana. Come no? Perché io sono andato a leggermi un po' quello che fai, e c'è un mondo dietro a Vittorio. E Francesco invece vorrei una puntata di filosofia pura. Va bene, va bene. Vi inviterò singolarmente. Questo era Coxo Spaziale, io ero Stefano W. Pasquini, e ci sentiamo come al solito lunedì prossimo alle ore 19. Vi lascio con Jenny Owen Youngs. Forse, se parte. Addirittura con la borsina della... Kid, it was boxes and balls, crossing my fingers and wishing for snow. Honestly, I don't know where the time goes. cut down an evergreen, brought it inside, made it a Christmas tree, strung all the lights, popcorn and cranberries, friends and our family, gold in the glow of the fire. Haven't seen you in a while. Hope you're alright. Wish you were here. Maybe next year. Wish you were here. Maybe next year. Easy to let you go most of the time. The ache in my chest has been slipping my mind. See on the screen, it's a wonderful trasmissione. Wish you were here.